L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Sette notizie per sette giorni, ormai la conoscete, la formula dell'ottavo giorno. Ripercorreremo i fatti più importanti dell'ultima settimana, cominciando da sabato scorso 22 novembre, e arriveremo a raccontarvi tutto quello che è successo fino a ieri. Come sempre, come nostra tradizione, i servizi, le interviste e i commenti che riascolterete sono già andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. Scuola killer, muore 17enne, questo è il titolo di Repubblica, potevamo scegliere altri giornali, comunque questo titolo mi sembra perfetto nella sua sintesi drammatica per raccontare la tragedia nella scuola di Rivoli in provincia di Torino, una tragedia assurda se pensiamo che siamo nel 2008, ma che è purtroppo figlia di una politica di lunghissimo corso distratta nei confronti proprio della scuola. È un discorso che coinvolge tutti, destra e sinistra, non voglio certo essere di parte. Riviviamo però la cronaca di quello che succede sabato scorso a Rivoli in questo servizio di Paolo Piacenza. Vito Scafidi, 18 anni, è la vittima di quella che il sindaco di Rivoli, città alle porte di Torino, ha definito una morte bianca della scuola. Questa mattina Vito era in classe con i compagni della quarta G del liceo scientifico Darwin. Durante l'intervallo il controsoffitto cede e i giovani vengono travolti da un pesante tubo di ghisa. Vito muore, altri quattro rimangono feriti in modo grave, feriti più lievemente una quindicina di compagni. Il ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini si è recato sul luogo dell'incidente e ha parlato di tragedia inspiegabile, anche se alcuni elementi si intravedono, come dice la presidente del Piemonte Mercedes Bresso. Sembra che sia un tubo che era sotto un tubo di ghisa, quindi pesantissimo, tenuto su da dei cavi di acciaio, qualcosa ha fatto sganciare questi cavi, però non penso tranciati. No? Il procuratore capo di Torino, Raffaele Guariniello, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Nei prossimi giorni le perizie e la procura vuole fare presto anche, dice Guariniello, per rispondere alle domande piene di angoscia dei genitori di Vito Scafidi. Accanto al lutto e al dolore dei parenti, degli amici, dei compagni di scuola, attorno a questa tragedia di Rivoli si scatena una bagarre politica, per molti aspetti direi di bassissima lega. Mentre alcuni studenti bloccano il Festival del Cinema di Torino e il suo organizzatore e direttore Moretti li giustifica, Berlusconi parla di fatalità addirittura, seppur tragica. Una espressione non felicissima che infatti fa arrabbiare l'opposizione che insorge, mentre il sottosegretario Bertolaso ammette che una scuola su due in Italia è a rischio. Sentiamo Vincenzo Miglietta che riassume così la giornata di lunedì. I tragici fatti accaduti in provincia di Torino entrano di prepotenza nel dibattito parlamentare. La sicurezza è una priorità, ma no alle speculazioni, dice la maggioranza. Il governo, replica l'opposizione, ha comunque la responsabilità politica di aver tagliato le risorse alla scuola. Dall'esecutivo, che riferirà questa mattina in aula alla Camera con il responsabile della protezione civile Bertolaso e il ministro dell'istruzione Gelmini, a garantire la sicurezza delle scuole riguarda tutti governo ed enti locali. No alle strumentalizzazioni politiche, dice Cicchitto, PDL. Io reputo che sia destituito di fondamento attaccare un governo che sta da 6 mesi in carica per una questione che è aperta da molti anni. È sbagliato dire che è stata una fatalità, replica l'opposizione con Franceschini che parla di responsabilità politica. Lusetti, sempre dal Partito Democratico, aggiunge: noi chiediamo che ci sia una corsia preferenziale sia in Parlamento che a tutti gli altri livelli istituzionali, se è vero, come dice Bertolaso, che 2 scuole su 4 sono fuori norma, quindi devono essere messe in sicurezza. Oggi intanto 6ª giornata nazionale della sicurezza nelle scuole, 10.000 gli istituti coinvolti. Mercoledì si svolgono i funerali di Vito Scafidi, il ragazzo 18enne, studente morto nel crollo del liceo scientifico Darwin a Rivoli. Vicino a Torino ci sono migliaia di persone che partecipano a questo funerale, c'è la commozione mista alla rabbia dei partecipanti. Purtroppo però quello che è successo a Torino potrebbe, speriamo naturalmente di no, accadere in tante altre scuole d'Italia. Non a caso Radio 24 inizia un viaggio nelle scuole meno sicure del nostro paese. La prima tappa ci porta in quella che, secondo la classifica di Cittadinanza Attiva, è la peggiore scuola d'Italia sul piano della sicurezza. Si trova a Lamezia Terme. Sentiamo Raffaella Calandra. Impossibile cercare di contattarla senza telefono, ma soprattutto senza il certificato di agibilità. È nel cuore di Lamezia Terme, la scuola più pericolosa d'Italia, secondo la graduatoria di Cittadinanza Attiva. Uno stanzone per due classi, 17 iscritti, un paio di maestre e un solo piccolo bagno. Benvenuti alla scuola per l'infanzia Giacomo Leopardi. Da qualche giorno in realtà le porte sono chiuse, gli alunni infatti sono stati trasferiti causa lavori radicali deliberati il 21 novembre, come conferma l'assessore alla scuola Milena Liotta. Abbiamo previsto trasferimento dei bambini presso un'altra scuola per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, con un impegno di spesa complessivo di 90.000 euro per la messa in sicurezza di questi locali. Se per altre scuole, come in Via delle Rose, di recente sono stati sistemati gli impianti elettrici e nel complesso Bucolia invece si cerca ora di risolvere il problema infiltrazioni, evidente nelle macchie di umido e nella puzza di muffa, la Leopardi era sempre rimasta fuori da ogni ristrutturazione. Ma da quanto tempo non si programmavano lavori complessivi negli istituti scolastici? Mi faccia dire, ma parecchi, cioè si sono fatti degli interventi negli anni, ma sempre degli interventi tampone. Ora abbiamo deciso di fare interventi risolutivi. La tragedia di Rivoli non è la sola che succede in questa settimana nel mondo della scuola, un mondo già tormentato per tanti altri aspetti. Infatti la cronaca ci riporta martedì a quello che succede a Milano. Marco Lignana. Alle 10 del mattino nella scuola Cappellini, periferia nord di Milano, è appena finita la lezione di inglese della prima elementare. I bambini escono dall'aula laboratorio al terzo piano di un edificio in perfette condizioni. Passano pochissimi minuti e la maestra si accorge che all'appello manca un alunno. Rientra in laboratorio e vede una sedia sotto una finestra aperta. Una decina di metri più in basso, riverso al suolo, c'è uno dei suoi studenti, 6 anni, in fin di vita. All'ospedale Niguarda il piccolo entra in coma. Per la maestra l'accusa è di lesioni colpose gravissime e se il bambino non riuscirà a sopravvivere il reato ipotizzato diventerà omicidio colposo. Intanto davanti alla scuola Cappellini i genitori degli alunni parlano di un istituto modello. Per quanto riguarda le strutture della scuola tutto quanto mi sembra a posto, anzi una delle migliori rispetto a quello che c'è in giro. Sì, non ho avuto mai problemi, mai. Assolutamente. Mio figlio è da 2 anni che la frequento, problemi non ho mai avuti, né con le maestre, il team maestre, perché sono bravissime, né a livello di strutture, cioè sono bravi. Le condizioni del bambino cinese ricoverato all'ospedale Niguarda, aggiornate a ieri, sono stabili, speriamo naturalmente bene, in bocca al lupo al bambino. Tante sarebbero poi le cose da dire ancora sulla scuola in questa settimana, per esempio i 5 cortei che ieri si sono svolti a Roma contro i tagli del governo ma anche in ricordo di Vito Scafidi, con l'Onda, il gruppo di protesta che blocca l'inaugurazione dell'anno accademico alla Sapienza, ma si potrebbe anche parlare dell'approvazione del decreto Gelmini sull'università al Senato di giovedì. Per chiudere invece questa prima parte dell'ottavo giorno abbiamo scelto di andare in Spagna per una sentenza che domenica fa molto discutere. Da Madrid il servizio di Michele Calcaterra. La Spagna, o meglio la regione Castiglia-La Mancia, dice no ai simboli religiosi nelle scuole ed è la prima volta che ciò accade. Con una sentenza che farà discutere per molto tempo, il giudice Alejandro Valentín di Valladolid ha infatti imposto alla scuola pubblica Macías Picavea di ritirare i simboli religiosi dalle aule e dagli spazi comuni. Secondo la sentenza del 14 novembre scorso, il crocefisso, che ha una chiara connotazione religiosa, potrebbe provocare nei giovani in fase di crescita il sentimento che lo Stato è più vicino a questa confessione che ad altre. E in un paese laico come la Spagna questo è evidentemente un peccato che mette in dubbio la neutralità dello Stato. L'ottavo giorno. Domenica. Ancora insieme con l'ottavo giorno per parlare di calcio. La domenica, lo sapete, è il giorno consacrato al campionato di Serie A. Ma questa volta il clou si verifica sabato, cioè il giorno prima, grazie al derby d'Italia, così ribattezzato da tanti anni, Inter-Juventus. Galliani, in realtà a nome del Milan, si è lamentato di questa definizione e ha fatto capire che, visti i trofei conquistati soprattutto in Europa, il Milan merita di essere iscritto, almeno di essere una delle due squadre che fa parte di questo derby d'Italia. Ma al di là di queste polemiche, sentiamo come è andata a finire sabato una grande prova soprattutto dell'Inter. Dario Ricci. L'Inter piega la Juve e va in fuga. A San Siro il derby d'Italia finisce 1-0 per i nerazzurri. Risultato che sta stretto agli uomini di Mourinho, che hanno sovrastato una Juventus tradita dalle sue stelle più attese, Del Piero, Amauri e Nedved. Decide la sfida un tocco di Muntari a 20 minuti dalla fine, su tiro cross di Ibrahimovic, dopo che Adriano, titolare a sorpresa dal primo minuto, aveva recuperato il pallone nel cuore della difesa juventina. Gol meritato, dopo che per quasi un'ora le parate di Manninger e una mira sciagurata avevano frenato gli assalti proprio di Muntari, Adriano e Ibrahimovic. E la Juve, perso Thiago per un infortunio dopo due minuti, si è vista solo con un colpo di testa di Del Piero parato da Julio Cesar. Si era già sull'1-0 e il pari sarebbe stato davvero troppo per quanto fatto dai bianconeri ieri sera. Nell'altro anticipo, la doppietta di Montolivo e i gol di Mutu e Gilardino hanno firmato il 4-2 della Fiorentina sull'Udinese. Domenica si svolge il resto della giornata e i risultati sorridono ancora all'Inter, che in attesa della partita attesissima di domani contro il Napoli allunga in testa la classifica. Carlo Getta. Finisce con il Milan che protesta per giochi di mani in area, questa volta sfavorevoli ai rossoneri, con il Toro che pareggia su rigore, 2-2 all'Olimpico, e con l'Inter al primo allungo stagionale, +3 sui cugini e +6 su Juventus e Napoli. Non tanta roba, nemmeno metà strada, ma già qualcosa, specie se si ripensa all'impressionante intensità emotiva con la quale i nerazzurri hanno messo in soggezione la Juve. Quelle che inseguono sembrano aver già la lingua fuori, purtroppo. Il Napoli, che domenica prossima salirà a San Siro, sbatte via i 3 punti facendosi rimontare dal Cagliari al 95esimo e con colpa grave della sua difesa. Lazio e Genoa si spartiscono un pareggio, l'Udinese era già affondata sabato. È ufficiale da ieri la rinascita della Roma, che distrugge il Lecce con Totti che torna a illuminare e a dispensare cucchiai. Già si pensa alla corsa al quarto posto in casa giallorossa, sogni forse un po' prematuri per chi si è appena alzato dal letto. A proposito di malati, in coda al Chievo ha già davvero una brutta cera. Inter, tanto bella in campionato quanto deludente in Champions League mercoledì. Ci spiega tutto ancora Carlo Genta, ricordando tra l'altro che martedì la Juve ipoteca il primo posto nel suo girone, mentre la Fiorentina purtroppo viene eliminata. 4 giorni dopo la migliore, ecco la peggiore Inter della stagione. Quella che con Figo che torna in campo e Ibrahimovic che si prende una notte di vacanza, perde in casa con il Panathinaikos. Eppure anche in una sera così l'Inter spreme il risultato minimo che cercava, la certezza di essere già agli ottavi di finale, nel girone più pazzo del mondo, dove la Nortosis pareggia con il Werder Brema e si giocherà la qualificazione proprio coi greci. Mourinho non voleva volare a Brema ai primi di dicembre con qualche discorso ancora in ballo. Ora dovrà difendere il primato contro una squadra che cerca l'obiettivo piccolo della qualificazione UEFA. Chi fa il colpo grosso è invece la Roma, a dimostrazione del fatto che quando hai a favore le stelle nulla ti può spaventare. Il Cluj nel primo tempo tira in porta un'enormità di volte a una Roma che balla, eppure sono i giallorossi a segnare con Brighi e con un arcobaleno su punizione di Francesco Totti. I romeni accorciano prima che sia intervallo, ma quando provano a dare tutto nella ripresa vengono freddati ancora da Brighi. Ora la Roma è addirittura prima, con il Bordeaux all'Olimpico il 9 dicembre avrà il suo destino in mano. Lunedì. Settimana fitta di appuntamenti, di episodi, di cose da analizzare per l'economia italiana, europea e americana. Ormai è una costante visto il periodo che stiamo vivendo e quindi è una costante anche della scaletta qui dell'ottavo giorno. Partiamo però da quello che succede nel nostro paese. Infatti lunedì il governo presenta la sua ricetta per affrontare la crisi economica. Elisabetta Fiorito. Il governo espone il piano anticrisi alle parti sociali, ma la CGIL conferma lo sciopero del 12 dicembre. L'esecutivo promette interventi sui mutui, riduzione di luce, gas, autostrade, oltre a bonus in contanti per le famiglie più deboli. Poco prima dell'incontro il ministro dell'economia Giulio Tremonti spiega che la finanziaria non verrà modificata e lancia un appello all'unità. A tutti gli uomini e alle donne liberi e forti, facciamo appello perché uniti insieme possiamo propugnare nella loro interezza gli ideali di giustizia e di libertà. Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia è contraria alla detassazione degli straordinari e chiede altre misure. Chiediamo che su questi punti, rivalutazione dei beni strumentali, credito d'imposta sugli investimenti e anche decontribuzione dei premi variabili, ci siano delle decisioni del governo. I sindacati vogliono interventi strutturali sui salari. Guglielmo Epifani, CGIL. La strada migliore è quella di utilizzare la 13ª perché arriva alla fine dell'anno, ma non può essere un una tantum. Ma Epifani conferma lo sciopero generale indetto per il 12 dicembre. Ma sempre lunedì per l'Italia arrivano pessime notizie, infatti nella classifica di competitività l'Italia scivola agli ultimissimi posti. Da Roma il servizio di Vanessa Colangiuli. Nella regione fiscale siamo quasi agli ultimi posti nella classifica proprio generale, 78esimo, 79esimo, poi scendiamo su 82 paesi, quindi il nostro regione fiscale viene considerato il peggiore. Quello illustrato dall'amministratore delegato di Business International Elido Fazzi è soltanto uno degli elementi critici che fotografano al momento no dell'azienda Italia. Un paese sostanzialmente fermo, secondo lo studio condotto dal centro di ricerca del settimanale britannico Economist e presentato in una tavola rotonda a Roma. Italia 40esima nel mondo per competitività, alle spalle di paesi come Lettonia e Thailandia, 16esima su 18 stati dell'Europa occidentale davanti alle sole Grecia e Turchia. E le note dolenti riguardano anche il mercato del lavoro. È in peggioramento perché l'Italia non ha fatto nulla per renderlo, come dire, omogeneo a quello di alcuni altri paesi europei, dove c'è più libertà di poter licenziare, però poi le famiglie, le persone che lavorano, che perdono il posto, vengono protette da un sistema di welfare molto più equo e molto più efficace. Tra le ricette per un'inversione di rotta, un taglio fiscale a breve per ridurre non solo le tasse sui salari, ma anche gli oneri a carico dell'impresa. Intanto dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti, Barack Obama prosegue il suo lavoro in questa delicata fase di transizione, in attesa poi di vederlo finalmente presidente degli Stati Uniti a tutti gli effetti il 20 gennaio prossimo. Il neopresidente comunque mette subito in piedi in tempi record il team economico. Sentiamo Sergio Nava e poi la risposta delle borse, risposta di lunedì davvero euforica nel servizio di Valeria De Rosa. We are facing an economic crisis of historic proportions. Una crisi di portata storica. Barack Obama sceglie di accantonare ogni ritrosia all'azione per rispetto al presidente in carica e avvia nei fatti, già da adesso, la sua presidenza. L'occasione è la presentazione del suo team economico. Timothy Geithner, as Secretary of Treasury, che prevede Timothy Geithner, un uomo di riconosciuta indipendenza ed esperienza internazionale alla guida del tesoro. Il suo sarà un ruolo chiave nel tirare fuori il paese dalle secche della peggiore crisi post Grande Depressione. Insieme a lui Obama ha nominato Lawrence Summers, direttore del Consiglio Economico Nazionale, una sorta di super consigliere del presidente, mentre Christina Romer, esperta di tagli fiscali e crescita, dirigerà il gruppo di consulenti economici della Casa Bianca. Fatto il team, è tempo di pensare al piano di stimolo economico. I want to see it enacted. Che Obama intende rendere legge appena insediato alla Casa Bianca con l'appoggio del Congresso a maggioranza democratica. Cifre ufficiali sul piano non circolano, ma sarà certamente superiore ai 175 miliardi di dollari promessi in campagna elettorale. Sarà un pacchetto aggressivo che punterà sia a stabilizzare i mercati finanziari, sia a politiche di investimento in energia, infrastrutture, sanità e educazione. Aiuterà il settore dell'auto, ma senza assegni in bianco. Gli analisti stimano che potrebbe costare fino a 700 miliardi. Per questo, e già da oggi, Obama lavorerà sui tagli e sui sacrifici necessari al bilancio federale. I listini ringraziano. La squadra scelta da Obama per combattere la crisi, il piano di intervento annunciato da Londra e soprattutto l'annuncio del salvataggio di Citigroup. Tutto questo ha aiutato il rimbalzo dei mercati europei e statunitensi che ricorderanno a lungo questo lunedì. Gli Stati Uniti mobilitano oltre 300 miliardi di dollari per sostenere una banca che da sola gestisce 200 milioni di conti in 106 paesi diversi. Troppo grande per poter essere abbandonata se stessa, ma troppo grande anche per poter essere acquistata da un concorrente. 20 miliardi che arriveranno subito nelle casse di Citigroup. Il governo garantirà poi fino a 306 miliardi di prestiti a rischio e ipoteche su mutui commerciali e residenziali. In cambio il governo riceverà 27 miliardi di azioni privilegiate con un dividendo dell'8%. Questi aiuti si aggiungono ai 25 miliardi di dollari già ricevuti da Citi appena un mese fa. Una scelta necessaria secondo le istituzioni finanziarie a stelle strisce, per rafforzare la stabilità del mercato e aiutare la crescita dell'economia. Una scelta condivisa da repubblicani e democratici, perché tutti hanno da perdere in questa vicenda. Torniamo in Italia a seguire le mosse del governo, sempre in ambito economico. Mercoledì infatti l'esecutivo presenta la social card, sentiamo Vincenzo Miglietta, e subito dopo Sergio Nava, che invece illustra il pacchetto anticrisi predisposto sempre mercoledì dall'Unione Europea. Destinata ad una platea di 1.300.000 persone, la carta acquisti costerà allo Stato 450 milioni di euro l'anno. Azzurra, anonima, la social card simile ad un bancomat avrà inizialmente un credito di 120 euro relativo agli ultimi tre mesi del 2008. I dettagli dal ministro dell'economia Tremonti. A regime sarà di 40 euro più gli sconti che saranno convenzionati con le catene commerciali. La carta va agli anziani che hanno più di 65 anni e alle famiglie che hanno bambini piccoli. Il modello economico di riferimento è quello ISEE, riservata di base a coloro che non superano i 6.000 euro l'anno. Saranno inviate giornalmente 300.000 carte e la distribuzione avverrà attraverso le poste. La cosiddetta social card si aggiunge alle ulteriori misure anticrisi che il governo varerà domani. Slitta invece il CIPE relativo alle infrastrutture. Critica l'opposizione, dal governo ancora nulla per famiglie ed imprese, dice Veltroni, sempre dal PD. Letta commenta così la social card. Immaginare che il rilancio dei consumi parte dall'intervento della social card è, secondo noi, un errore profondo. Dal Partito Democratico solo critiche di basso livello, replica da Palazzo Chigi il sottosegretario Bonaiuti. Un piano anticrisi per evitare una recessione profonda e duratura. La Commissione Europea ha varato l'atteso pacchetto di stimolo da 200 miliardi di euro, un complesso mosaico di misure comunitarie e nazionali. Le plan européen présente. Come ha spiegato il Presidente della Commissione, José Barroso, 170 miliardi saranno a carico dei bilanci nazionali, gli altri 30 proverranno dalle casse di Bruxelles. In quest'ultimo caso, oltre 6 andranno a sostenere politiche per l'occupazione, 4,5 arriveranno dai fondi strutturali e quasi 2 dal fondo sociale, mentre 5 saranno sbloccati per le interconnessioni energetiche e la banda larga. Altri 15 arriveranno dalla BEI, che finanzierà i prestiti alle piccole e medie imprese. A livello nazionale, la somma proposta da Bruxelles equivale già, in realtà, al mero totale dei piani proposti dai maggiori paesi membri, Italia inclusa. La Commissione chiede loro di stimolare l'offerta di lavoro, snellire la burocrazia per le imprese, promuovere prodotti ecologici, anche tagliando l'IVA, investire in ricerca e sviluppo e su tecnologie per le auto meno inquinanti. Bruxelles esige dai 27 un'azione coordinata. Su un punto la Commissione non abbasserà la guardia, come ribadito dal titolare dell'economia Joachim Almunia. Sforamenti al patto di stabilità saranno tollerati solo se pari a pochi decimali e inferiori a un anno, altrimenti scatterà la procedura di infrazione. Ieri il Consiglio dei Ministri ha detto sì al decreto legge anticrisi, di cui peraltro avevo anche parlato pochi minuti fa qui all'Ottavo Giorno. È stato confermato il bonus per i redditi bassi, poi c'è il calmiere per i mutui e il blocco degli automatismi per le tariffe in vista del 2009. C'è stato poi un ritocco del 3% per gli acconti di IRPEF e IRAP. Berlusconi si è detto soddisfatto e ha chiesto la collaborazione del Partito Democratico, che però ha subito bocciato l'iniziativa del governo. Giudizio negativo anche da parte di Epifani, che ha riconfermato lo sciopero della CGIL generale per il 12 dicembre, mentre parere positivo di Bonanni. La Confindustria infine dice che il decreto va nella giusta direzione, ma servono ulteriori fondi. L'ottavo giorno. Martedì. Ancora una volta dobbiamo parlare di Alitalia. Tra le tante vicissitudini della nostra compagnia di bandiera, questa volta dobbiamo raccontare soprattutto del ritardo nei tempi di avvio di start-up, come si dice in gergo tecnico, della nuova compagnia di CAI e di nuovi ennesimi disagi sul fronte dei voli e quindi disagi per i passeggeri. Ma sentiamo prima di tutto il quadro della situazione ad inizio settimana, come si presentava, lo ha tracciato Annalisa D'Ambrosio. Tempi più lunghi per la nuova Alitalia. Il primo volo targato CAI non partirà prima di Natale. C'è da attendere il verdetto dell'antitrust e ci sono problemi operativi da risolvere. La settimana che si apre resta comunque importante. Martedì il consiglio di amministrazione della società guidata da Colaninno varerà l'aumento di capitale di CAI 1 e CAI 2, le controllate che assorbiranno AZ Express e Volare. Sulla scelta del partner internazionale ancora nessuna certezza. Tra le due ipotesi in campo resta più probabile quella di Air France, dopo l'incontro tra Colaninno e Spinetta e le rassicurazioni su Malpensa con i francesi disposti a garantire un potenziamento delle rotte. Non completamente chiusa però la porta ai tedeschi di Lufthansa, il cui numero uno, Meyer Huber, è atteso mercoledì a Milano. Tra poco torneremo sui disagi, sulle difficoltà di CAI e i suoi problemi. Ora però riassumiamo la situazione del caos nei cieli a metà settimana. Così ce li racconta Valeria De Rosa. Colpa dello sciopero bianco, secondo alcuni. Colpa del fatto che si vuole favorire la CAI, secondo altri. Sta di fatto che nel giro di pochi giorni, sud e nord, si sono visti tagliare anche il 70% dei collegamenti per questa settimana. Ma la prossima di settimana tutto torna come prima, almeno stando all'orario ufficiale. Fatta eccezione per il volo Parma-Roma, di cui non si hanno più notizie. Resiste Brindisi, dato per spacciato. Fino al 30 novembre c'è un solo volo. Dal 1 dicembre, però, riappaiono i quattro collegamenti con la capitale. Lo stesso discorso vale anche per la più redditizia tra le tratte, la Milano-Roma-Milano. Questa settimana sono scomparsi alcuni voli, che ricompaiono la prossima. Se poi per caso aveste bisogno di spostarvi da Torino a Roma in questi giorni, sarebbe più saggio scegliere il treno. Ma non c'è da preoccuparsi, dal 1 dicembre tornano tutti e 7 i collegamenti. Il problema questa settimana è al sud. La Sicilia è isolata, così come la Puglia e la Calabria. Però, stando all'orario ufficiale, da lunedì tutto torna alla normalità. A parte il fatto che non è ancora chiaro se lunedì alla Magliana ci sarà ancora il commissario Fantozzi o sarà arrivata la cordata CAI. Mentre l'Italia resta a terra ed una serie di voli vengono cancellati, la tedesca Lufthansa riparte all'assalto di Milano Malpensa. Sentiamo Enrico Pagliarini. Da oltre un anno SEA, la società pubblica che gestisce gli aeroporti milanesi, collabora con Lufthansa per colmare il vuoto lasciato dall'Italia nel principale scalo del nord. Ora la collaborazione prende la forma di una compagnia aerea vera e propria con 6 aerei e personale prevalentemente italiano che verrà assunto nei prossimi mesi. Il presidente di SEA, Giuseppe Bonomi. Nasce una nuova compagnia che si chiamerà Lufthansa Italia, comincerà a operare i primi di febbraio del 2009 e collegherà Malpensa in un primo momento con le principali capitali europee. Le città saranno 8 e in futuro potrebbero arrivare anche voli intercontinentali e nazionali, perché la collaborazione punta al 2015, l'anno dell'Expo, con una chiara strategia, che è quella di inserire Malpensa nel sistema multi-hub di Lufthansa. Ma l'operazione mette la parola fine all'ipotesi Lufthansa come socio di CAI nella nuova Alitalia? No, ci dice il numero uno della compagnia, Wolfgang Mayruber. First of all, it will not affect our plan. Quello annunciato ieri non interferirà con un eventuale accordo, accordo per il quale fanno il tifo molti politici lombardi. Mentre la notizia di ieri, la liquidità e i crediti a breve a disposizione di Alitalia al 31 ottobre ammontavano a soltanto 229 milioni di euro, addirittura c'è un calo del 7%, 16 milioni in meno rispetto a settembre. Dicevo, mentre ci sono queste brutte notizie che arrivano sul fronte della liquidità, giovedì si registra l'ultimo impasse per CAI. Anna Marino. Partenza in ritardo per la nuova Alitalia. Mancano alcune informazioni. L'ente nazionale per l'aviazione civile avverte che la compagnia aerea italiana non riuscirà a decollare il 1 dicembre. La nuova data per lo start-up del vettore non è ancora stata comunicata. L'ENAC attende l'informazione, ma assicura che fino al completamento del passaggio a CAI Alitalia continuerà ad operare. Sorvegliata speciale anche a tutela del passeggero, perché in questo periodo continui ad essere garantito il diritto dei cittadini alla mobilità. I tempi però sono stretti. Una delle motivazioni all'origine del ritardo è il mancato arrivo del parere dell'antitrust italiana e di quella europea. Il presidente dell'antitrust, Antonio Catricalà, ha annunciato che nei primi giorni della settimana prossima l'agenzia chiuderà l'esame del dossier all'Italia, aggiungendo che un concorrente, Meridiana, ha chiesto di vedere le carte per presentare osservazioni. Mercoledì. Inizia il terrore in India, che si prolungherà fino alla giornata di ieri con una serie impressionante di attacchi firmati dal terrorismo islamico a ripetizione su scuole, alberghi, ospedali a Mumbai, quella che una volta si chiamava Bombay. Il racconto in diretta nel GR delle 8 di giovedì è di Laura Bettini, che quindi riassume un po' la situazione di tutta la giornata convulsa, terribile, drammatica di mercoledì. La città è stata colpita da una serie simultanea di attacchi ad alberghi, stazioni, siti turistici, che si contano oltre 100 morti, di cui 6 stranieri. Si ha notizia che tra questi vi siano un giapponese e un australiano. Non ci sono notizie di italiani, ma l'assenza di vittime italiane non è ancora confermata. Intanto ci sono certamente decine di ostaggi occidentali, soprattutto americani ed inglesi, che sono tenuti appunto in ostaggio dai terroristi in vari hotel della città. Tra questi ostaggi ci sono degli italiani ancora chiusi in alberghi, in diversi alberghi appunto della città. È impossibile al momento sapere esattamente quanti, ha detto l'ambasciatore italiano in India, Roberto Toscano, perché due degli hotel presi di mira, in particolare l'Oberoi e il Trident, sono ancora in mano agli assalitori. Poco fa abbiamo parlato con Jen Rasman del Taj Hotel, a un paio di chilometri dall'altro Taj Hotel che è stato a lungo preso d'assalto e tenuto sotto il controllo dei terroristi. Si tratta di un hotel non distante appunto dal Taj Mahal, e questo è quello che ci ha detto della situazione al momento in città. Right now, ma'am, actually Ora come ora ci dice, ci è stato detto di non uscire, anche agli ospiti è stato detto che non è sicuro lasciare l'albergo, fino almeno a quando non ci diranno che potremo tornare all'aperto. In questo albergo ci sono più di 3.000 persone, per le strade la situazione è abbastanza tranquilla, ci dice ancora Jean Rasman, c'è la polizia, i problemi però sono limitati ai due hotel di cui dicevamo poco fa, che sono appunto in mano ai terroristi. Ma chi sono questi terroristi? Sarebbero dei Mujahedin del Deccan, un gruppo estremista sconosciuto fino a questo momento, che dice di volere la liberazione di tutti i Mujahedin nelle carceri indiane. Dietro di loro forse c'è Al-Qaeda. Purtroppo con il passare delle ore la situazione peggiora, sale il numero di morti e tra questi si aggiunge anche un italiano. Sentiamo allora la scheda sugli ostaggi italiani che è andata in onda giovedì, quando, attenzione, i nostri connazionali sono ancora nelle mani dei rapitori. A seguire la testimonianza della direttrice dell'ufficio ICE dell'Istituto per il Commercio Estero a Mumbai, Erika Di Giancarlo. Tra gli italiani che si trovavano a Mumbai al momento dell'attentato non c'erano solo turisti, ma soprattutto imprenditori, albergatori e operatori turistici. Alcuni si trovavano lì per partecipare al workshop organizzato dall'ENIT, Agenzia Nazionale per il Turismo, proprio nell'albergo Oberoi Trident. L'unica vittima italiana, Antonio Di Lorenzo, era un imprenditore livornese e si trovava lì per affari. Tra i 7 connazionali tenuti in ostaggio all'hotel ci sono una donna, moglie del cuoco dell'Oberoi, con la figlia di pochi mesi e i genitori di un ispettore della polizia. Gli altri 3 sono operatori turistici, un'albergatrice fiorentina con il suo compagno romano e il direttore di un hotel di Milano. Un altro italiano, general manager di un hotel di Viareggio, è scampato all'attentato per aver anticipato di pochi minuti la sua partenza. Altri italiani erano rientrati prima del tempo dopo aver appreso che era previsto un attentato nella città, come ci racconta Elisa Brozzelli, ex stagista della Camera di Commercio a Mumbai. Noi sapevamo che Bombay era una città target, perché comunque c'erano stati degli attentati a Delhi e anche leggendo il quotidiano tutti i giorni si sapeva che comunque Bombay era una città a rischio. Mi è stato impedito di uscire dal ristorante perché c'erano gli attacchi in corso che erano iniziati nella parte vecchia dell'hotel, nella parte più antica. Il ristorante dove io mi trovavo invece era nella parte nuova. Quindi nella sfortuna, diciamo, sono stata fortunata perché mi sono trovata nella zona forse più sicura dell'albergo in quel momento. Poi però siamo stati spostati in una sala adiacente al ristorante perché ritenuta più sicura, e invece da lì abbiamo cominciato a sentire spari e esplosioni. Quando siamo riusciti ad uscire, quindi erano circa le 3:30, le 4 del mattino, le strade intorno all'albergo, a parte la presenza dei militari, dell'esercito, della stampa, la città era completamente deserta. Una città stranissima, che noi che viviamo a Bombay non siamo assolutamente abituati a vedere Bombay così deserta, così vuota. Adesso, per capire chi c'è dietro agli attacchi di Mumbai, tra l'altro giunti in concomitanza con le minacce di Al-Qaeda di un attentato alla metropolitana di New York durante il periodo delle feste natalizie, riascoltiamo il commento di Alberto Negri. Con l'attentato di Mumbai, l'antica Bombay, è stata colpita la finestra dell'India sul mondo, la città simbolo di un paese di 1 miliardo di abitanti, di cui il 15% sono musulmani e costituiscono la maggioranza nella regione contesa del Kashmir. L'anno scorso in India ci sono stati 2.700 morti in attentati terroristici, manifestazioni sanguinose delle profonde divisioni che lacerano un grande paese. Ma questa volta il terrorismo islamico, colpendo gli occidentali, ha fatto un tragico salto di qualità, avvalorando la matrice eversiva internazionale. È sintomatico che tutto sia accaduto mentre il presidente pakistano Zardari tendeva la mano all'India e per la prima volta aveva dato la sua disponibilità a trattare persino sulla bomba atomica. In realtà Pakistan, India e Afghanistan costituiscono da tempo una sorta di triangolo delle Bermuda della politica estera, un buco nero di crisi endemica, dove quando non si scontrano gli eserciti scendono in campo guerriglia e terrorismo. Dopo l'attentato di Mumbai, le forze della pace e la diplomazia dovranno evitare che questo campo di battaglia possa diventare il teatro di un nuovo conflitto internazionale. Chiudiamo questa triste pagina sugli attentati in India riascoltando la dettagliata e puntuale cronaca di Sergio Nava ieri nel GR del 19. E quelli che che sentite sono alcuni degli spari e delle esplosioni registrate al Taj Mahal, di fatto l'ultimo teatro di guerra tra le forze speciali indiane e i miliziani che 2 giorni fa hanno lanciato un attacco in grande scala su Mumbai. Nell'hotel di lusso dove nelle ultime ore sono stati ritrovati 50 cadaveri, le operazioni di modifica dai terroristi che ancora vi si annidano non sono ufficialmente terminate. Secondo la BBC il loro numero di terroristi ancora serragliati potrebbe essere almeno di 2 o 3. Sempre per la BBC sarebbe ormai conclusa l'operazione al centro ebraico Nariman, dove hanno perso la vita il rabbino e la moglie. In tutto 5 cadaveri di ostaggi sono stati rinvenuti all'interno dell'edificio. La novità più interessante arriva per la prima volta dal fronte politico. La rete televisiva CNN ha reso noto che i premier indiano e pakistano conferiranno a proposito della crisi determinata dagli attacchi. Una mossa dovuta e un chiarimento d'obbligo considerati anche i pesanti sospetti secondo i quali gli attentatori potrebbero essere stati appoggiati dai servizi segreti di Islamabad. Le vittime sarebbero oltre 150, tra loro, come noto, l'italiano Antonio Di Lorenzo. Per quanto riguarda invece gli ormai ex ostaggi italiani, il ministro degli esteri Franco Frattini ha affermato che alcuni di loro rientreranno nelle prossime ore con un aereo francese. L'ultima ora riguarda invece una dichiarazione del presidente della Repubblica Napolitano che ha sollecitato uno sforzo congiunto della comunità internazionale per isolare e combattere il terrorismo. L'ottavo giorno. Giovedì. È il giorno successivo a 2 sentenze molto diverse tra loro, ma che fanno gran rumore e finiscono entrambe sulle prime pagine dei giornali e sono entrambe durissime. La prima riguarda l'omicidio di Erba, che vede sul banco degli imputati Rosa Bazzi e Olindo Romano. Sentiamo l'inviata a Como Raffaella Calandra proprio sui dettagli della sentenza. Pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni 3. Nessun dubbio, nessun approfondimento né perizia psichiatrica. Finisce col carcere a vita e l'isolamento, il massimo. Il primo processo per Olindo e Rosa, i vicini di casa di Erba, condannati per il massacro di 4 persone, tra cui un bimbo, uccisi per liti di condominio. Non ci sono nella gabbia gli imputati, mentre il presidente della corte pronuncia il fine pena mai. Ci sono invece i familiari delle vittime, come Azzuz Marzouk, che con 2 rose bianche ha aspettato la sentenza, l'unica giusta per il PM Massimo Astori. Questo verdetto è un punto fermo su un'inchiesta iniziata con le confessioni di Rosa e Olindo, che ancora ieri invece ha proclamato l'innocenza sua e della moglie. Vorrei esprimere il nostro più sincero dispiacere per le persone che sono morte. Protesta Carlo Castagna, che ha perso moglie e figlia, lui che aveva invocato il pentimento dei 2 imputati, alle cui ritrattazioni i giudici non hanno creduto, come nemmeno all'episodio riferito ieri da Marzouk di un altro tunisino che ai suoi genitori avrebbe detto che non erano loro i responsabili. Per la corte invece furono senza dubbio Rosa e Olindo. E sempre Raffaella Calandra ha sentito a caldo il pubblico ministero del processo, Massimo Astori. L'unico commento possibile, cioè che una sentenza giusta, è quella che volevamo e quella che tutti ci aspettavamo. Non avevamo alcun dubbio che questa sarebbe stata la sentenza di oggi. Certamente ci siamo molto meravigliati di dover discutere questo processo in corte d'assise con questa evidenza probatoria. Comunque, ripeto, sono scelte difensive e abbiamo fatto il nostro lavoro. Diciamo che la corte d'assise ha accolto le nostre richieste, mi pare integralmente. Gli accertamenti psichiatrici nel processo ci sono stati e sono stati anche approfonditi, anche se se ne è parlato poco. Quindi giustamente la Corte ha respinto anche questa istanza. No, non ritengo che una perizia psichiatrica avrebbe cambiato le sorti del processo. Per quelle strane coincidenze di fronte alle quali ci pone spesso la scansione delle notizie, nello stesso giorno della sentenza di Erba ne arriva un'altra significativa, pesante e soprattutto esemplare. Infatti un uomo ubriaco al volante uccise 2 persone 6 mesi fa a Roma. Oggi è stato condannato per omicidio volontario. Da Roma il servizio di Elisabetta Fiorito, per una volta sottratta alle cronache di Montecitorio. Una sentenza destinata a fare da monito. Per la prima volta l'omicidio volontario viene applicato ad un incidente stradale. A maggio di quest'anno Stefano Lucidi aveva ucciso 2 ragazzi a Roma sulla via Nomentana mentre guidava sotto l'effetto di alcol e droghe. Alessio Giuliano, 23 anni, Flaminia Giordani, 22, erano a bordo di uno scooter al momento dello scontro e morirono subito dopo l'incidente. Lucidi dovrà scontare 10 anni per omicidio volontario. Il PM Carlo La Speranza ne aveva chiesti 14, ma è comunque soddisfatto che la sua tesi, quella del dolo eventuale, sia stata accolta dal giudice. D'accordo con il verdetto anche l'avvocato dei familiari delle vittime, Francesco Grimaldi. Il giudice Marina Finiti ha emesso la sentenza in mezz'ora, ha disposto l'interdizione e il risarcimento dei parenti delle vittime. Finiti deciderà nelle prossime ore se concedere la libertà provvisoria o gli arresti domiciliari. Per l'avvocato di Luci, di Basilio Fiori, la sentenza è in contraddizione con la giurisprudenza di legittimità. Difficilmente potrà resistere al vaglio d'appello. Venerdì. È una giornata segnata dal maltempo che si abbatte su gran parte dell'Italia. Nevica in Piemonte, Lombardia e Liguria. Ci sono purtroppo 5 vittime di incidenti stradali per colpa del vento e della neve e addirittura 700 tir sono bloccati al valico italo-francese di Ventimiglia. In tutto sotto la neve finiscono 500 chilometri di autostrada. Addirittura viene bloccato un treno nel basso Piemonte, rimasto senza luce e senza riscaldamento. Sentiamo la situazione raccontata da Paolo Panceri, aggiornata ieri sera nel GR delle 19. Andiamo subito in Liguria, dove oggi ci sono stati maggiori disagi al traffico e prosegue tuttora lo stato di allerta. Sentiamo il nostro corrispondente da Genova, Andrea Ferro. Buonasera da Genova. Nelle valli tra Liguria e Piemonte continua a nevicare, lo stato d'allerta resta in vigore fino alla mezzanotte sulle autostrade, seppur gradualmente la situazione sta migliorando dopo i blocchi che per 7 ore hanno paralizzato la A7, la Genova-Milano, e la A26, la Voltri-Gravellona-Toce. Pesantissimi disagi per gli automobilisti rimasti intrappolati nell'ingorgo sotto la tormenta. Per portare genere di conforto e soccorrere alcune persone colte da crisi di panico è intervenuta la Protezione Civile. All'autoporto di Ventimiglia i tir provenienti dalla Francia ora hanno ripreso a circolare. Difficoltà anche nei collegamenti ferroviari. È stata riaperta la linea Genova-Acqui. Su tutta la rete persistono forti ritardi. Voli adesso regolari all'aeroporto Cristoforo Colombo di Sestri Ponente. In porto sospese le operazioni commerciali, garantiti invece i collegamenti in traghetto con le isole. È stata una giornata di disagi per Genova, neve anche a livello del mare, strade interrotte in tutto l'entroterra e in alcuni comuni domani le scuole resteranno chiuse. Un blackout ha temporaneamente limitato l'attività all'ospedale San Martino. Ora la situazione è regolare. Per il momento da Genova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie ad Andrea Ferra. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, ricordiamo che il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza già dichiarato nel Friuli Venezia Giulia per far fronte proprio ai danni causati dalle precipitazioni. Ieri Radio 24 ha seguito per tutto il giorno l'evoluzione su strade e autostrade italiane della situazione maltempo. Continue finestre tra un'ora e l'altra, vi abbiamo persino dedicato uno speciale. Tra i tanti interpellati anche il professor Giovanni Menduni, direttore dell'Ufficio Rischi Naturali del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, qui al microfono di Roberta Pellegatta. È allerta, certo, molte delle regioni italiane sono sotto avviso meteo, sotto avviso di criticità idrogeologica. Per quello che riguarda il maltempo, noi abbiamo ancora neve sulle regioni del nord, anche se in progressivo lento miglioramento. Le ultime a resistere saranno i settori occidentali, il basso Piemonte, il Cuneese, l'Alessandrino, con disagi soprattutto per la viabilità. Andando via la neve, come andrà nella giornata di domani, noi ci troviamo già da stasera a avere a che fare con l'acqua. In particolare abbiamo questi temporali già in atto sulla Calabria, sulla Sicilia orientale, che si stanno purtroppo rapidamente estendendo alla Puglia. Prevediamo anche dei rovesci sul versante adriatico fino al Molise. Insomma, è una situazione da tenere molto molto sotto controllo anche per gli effetti del dissesto idrogeologico. Verosimilmente la giornata di domani si estenderà anche alla Toscana e al Lazio, che attualmente sono, diciamo così, in pausa, quindi grande attenzione, ecco. In una giornata di informazione dedicata ai disagi del maltempo, spesso le più preziose notizie arrivano proprio da voi ascoltatori. Ecco quindi un rapidissimo condensato delle tante testimonianze che ci sono arrivate, proprio di ascoltatori bloccati in strada. Ci sono diversi problemi qui, io sono da Appia Ovest, sono uscito e praticamente sono fermo qui da stamattina e ho visto circa 20 minuti fa il primo spazzaneve, una cosa indecente, la cosa si sapeva già da ieri, ma perché vedo anche bambini veramente in macchina che piangono, è la cosa che mi dà più fastidio, perché un bambino più di 2 anni e mezzo, io posso anche aspettare, ma ci sono situazioni peggiori delle mie. Ma io sto cercando di arrivare da Genova a Milano, ho sentito tramite la vostra radio che da Bolzaneto a Busalla era chiuso, ho fatto la statale fino a Busalla, solo che anche a Busalla è chiuso. Il problema è che anche la polizia provinciale consiglia di fare le statali perché non sanno quali accessi sono aperti e quali sono chiusi. In direzione sud, la confluenza tra la A26, lo svincolo tra A26 e A21 in direzione Piacenza non si riesce a uscire. Io sono uscito in direzione ovest, quindi in direzione Torino, ma c'è fila, siamo praticamente fermi o comunque a passo d'uomo in direzione di Felizzano. Io contavo di uscire a Felizzano, però ci saranno almeno 5 km di coda, almeno. Tra Villanova d'Asti e Asti, quindi tra Villanova, quindi che è verso Torino, e Asti, in direzione sud. Sono 3 ore che le automobili sono ferme. E questo problema è come se non esistesse. E saranno 10 minuti che si vede passare ogni tanto magari una macchina o dei pompieri. Quindi per 2 ore e 50 il caso non è esistito. Siamo arrivati all'ottava notizia della settimana, che ci riporta al primo giorno della nostra scaletta, sabato scorso, quando a 78 anni a Roma muore dopo una lunga malattia Sandro Curzi. Sentiamo da Roma Elisabetta Fiorito. C'è chi perde un amico, chi un leale avversario, chi un tifoso della Lazio. Politici, giornalisti, amici e gente comune danno l'ultimo saluto a Sandro Curzi, storico direttore del TG3, nella camera ardente allestita in Campidoglio. Il primo ad arrivare è il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. C'è un generale riconoscimento della grande passione e del temperamento generoso di Sandro Curzi. Ma il cordoglio è bipartisan, accorre anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Ma un combattente, un amico e un avversario, è l'avversario che uno avrebbe voluto incontrare sempre, forte, agguerrito, ma corretto e leale. È il turno poi del segretario PD, Walter Veltroni. Ma sa, sono tanti anni di ricordi, di affetto, di amicizia. Era difficile non volergli bene a Sandro, perché era una bella persona. Sono molte le persone arrivate in Campidoglio, così la vedova Bruna Bellonzi. Un omaggio di una tale portata che non io, ma nemmeno mio marito se lo sarebbe mai aspettato. Sono molto contenta di questo, mi consola un po'. Finisce qui l'ottavo giorno, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi ricordo la mail a cui potete scriverci, ottavogiorno@radio24.it. Da parte di Emiliano Ricco, l'appuntamento è alla settimana prossima, alla stessa ora, sempre su Radio 24. We'll be right back.